Giovanni. Da agosto ne ho passate di ogni specie e precisamente diverse maniere di apparizioni, ed ho la precisa sensazione che io potei dare a loro poco. In tutte furono 27 fantasmi, di cui 11 assai duri. Da 8 giorni è di nuovo tutto diverso. Adesso viene un mio buon conoscente Eiffel. Padre di. E vuole sempre toccarmi. L'acqua santa lo calma un tantino. È difficile eppure sono contenta. La sua apparizione è come una lanterna cieca diretta su di me. Col tempo si fece più buio intorno a lui. Di giorno lo vedo seduto su di un albero di fronte alla mia finestra mezzo bestia e mezzo uomo. Dopo alcuni giorni si slanciò con un urlo verso di me. Io, Giovanni, che cosa vuoi da me? Lui, la tua pace. Io, va da tua moglie che prega tanto. Lui, non la trovo. Io, lei soffre moltissimo a causa di. Forse andrebbe meglio se tu andassi da lei. Lui, non posso lasciare la strada. Io, sai tutto dei tuoi? Lui, no, le preoccupazioni umane rimangono lontane. Io, come posso aiutarti? Lui, lasciami stare con te fin tanto che posso non parlare più. Poi venne davanti come se il mio parlare lo rattristasse. Mi fece molta compassione. Ora è qui da molto ma io non parlo più. È molto agitato. Viene anche una donna e poi c'è tantissimo chiasso in camera. Ho visto in chiesa 7 figure che mi aspettavano sulla porta. 7 novembre. La sera all'imbrunire vado a passeggio nel viale, ed ecco venirmi incontro 2 donne che non conosco. Cerco di parlare con loro sparite. Allora mi ha proprio preso un brivido e sono tornata in fretta a casa. Singolare, quanto più le apparizioni sono naturali tanto più ci si spaventa. Io l'ho provato spesso con me stessa. Appena tornata a casa trovo.